Agroreportage. Filiera delle carni sostenibili in Unione Europea, di Anna Marino. Approda in Europa un modello tutto italiano di sostenibilità della filiera delle carni. È stato presentato a Bruxelles il progetto Carni Sostenibili da parte delle tre associazioni di categoria italiane Assica, Assocarni e Una Italia, insieme al rapporto 2016 La sostenibilità delle carni in Italia, che analizza in profondità i punti di forza e i progressi alla base del modello produttivo delle carni nel nostro paese e conferma il valore della dieta mediterranea per un'alimentazione varia, equilibrata e rispettosa dell'ambiente. Quindi sicurezza, sostenibilità, equilibrio nutrizionale sono tre caratteristiche distintive del modello del nostro paese, della produzione di carni e salumi, rappresentate dalla clessidra ambientale, modello che è una garanzia della durata di queste fondamentali caratteristiche nel tempo e per le future generazioni. Le norme europee sono già una solida tutela, con una serie di controlli a valle per i cittadini europei, ma questo modello è un passo in più che previene con interventi a monte, come spiega Paolo De Castro, presidente della Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale. Il sistema di produzione zootecnico europeo ha delle norme molto severe, sia riguardo la sicurezza alimentare, quindi benessere animale e tutto ciò che l'impianto legislativo europeo garantisce, consumatori da una parte e gli animali dall'altra. Carni sostenibili è qualcosa in più, nel senso che vogliamo innanzitutto chiarire una volta per tutto, dopo un po' di confusione mediatica che c'è stata intorno al tema del consumo della carne, che la carne non fa male, quindi un consumo consapevole, come per tutti i prodotti alimentari, l'importanza di sapere come alimentarsi con una dieta equilibrata e soprattutto variegata, e naturalmente portare avanti quelle che sono le attenzioni nei confronti dell'ambiente. Sappiamo il tema delle risorse naturali, dell'acqua, del suolo, quanto sono importanti. Ci abbiamo dedicato l'Expo 2015 intorno a questi temi, ecco perché è nato questo Carni Sostenibili. Questo documento, questa carta è stata presentata prima dell'estate, proprio dopo l'esperienza di Expo, e adesso quali saranno i ritorni, i riscontri? Noi abbiamo presentato qui in Parlamento Europeo, anche con l'aiuto di importanti nutrizionisti, è venuto il professor Calabrese e altri esperti a fine giugno in Parlamento Europeo, questo documento Carni Sostenibili, che illustra appunto quanto importante sia un tipo di dieta equilibrata. Questa carta sarebbe un modello utile per tutta Europa, il modello italiano. Migliorare l'educazione alimentare, questo è l'obiettivo, quindi sia di carattere informativo, ma poi anche come certificazione per dare ai nostri produttori un'ulteriore arma di distinzione in più per chi utilizza metodi sostenibili e che fanno bene all'ambiente e alla salute umana. Fotografa il settore e la proposta all'Europa per capire quando una carne è sostenibile. Aldo Radice, condirettore di Assica e segretario generale Associazione Carni Sostenibili. Noi abbiamo proposto una figura che si chiama clessidra ambientale, che gli ascoltatori possono trovare sul sito www.carnisostenibili.it, che fa vedere come la dieta mediterranea, in cui la carne ha il suo ruolo, non è solo molto buona dal punto di vista nutrizionale, ma è anche equilibrata dal punto di vista sostanziale. Vuol dire che anche la produzione è sostenibile, vuol dire che non è solo il gusto, ma è il modo di lavorarla dalla A alla Z. Esatto. Il modello di produzione italiana, il modello di produzione mediterranea e il ruolo che la carne ha nella dieta complessiva generano un grosso equilibrio dal punto di vista della sostenibilità. Quali sono le condizioni per cui la carne sia sostenibile? Quali avete indicato all'Unione Europea? La produzione tipica dei paesi del Mediterraneo, che è molto integrata, le produzioni zootecniche non producono solo carne, producono il latte e tutti i formaggi, producono le uova, producono le pelli, producono medicinali, producono le valvole cardiache, sta in piedi con un impatto ambientale adeguato e molto minore di sistemi più intensivi. Questo si lega poi al fatto che noi produciamo una quantità di carne minore rispetto ad altri sistemi in cui se ne mangia di più, perché la dieta mediterranea, che non è una dieta vegetariana ma una dieta in cui la carne ha il suo ruolo, prevede un consumo di carne, salumi, eccetera, minore rispetto alle diete, per esempio, del Nord Europa, o ancora molto minore rispetto alle diete, per esempio, degli Stati Uniti o dell'Oceania. Il nostro modello è un modello sostenibile. Fondamentalmente la carta coincide con il nostro modello di produzione. Esatto. Quando avete presentato questa carta? L'abbiamo presentata prima dell'estate al Parlamento Europeo, alla Commissione, in un grosso evento che abbiamo avuto al Parlamento Europeo. Lei è condirettore di Assica e segretario generale dell'associazione Carni Sostenibili. Esatto. Da quanto c'è questa associazione e soprattutto che cosa si propone? Allora, questa associazione c'è formalmente da un anno, nasce da un gruppo di lavoro che era partito naturalmente prima e che aveva lavorato molto in vista di Expo. Al termine di questo percorso abbiamo presentato un primo grosso studio Expo e poi naturalmente questa, diciamo, esperienza di condivisione, di ricerca, di analisi si è consolidata in questa associazione che esiste da circa un anno. Quanti siete nella vostra associazione e quanti produttori ci sono in Italia? Insomma, che cosa conta la filiera? Allora, la filiera in Italia vale circa 30 miliardi di euro, le filiere delle carni in generale, che sono circa 2 punti del PIL. E questo però riguarda solo la carne in quanto tale, i formaggi, non riguarda quello che dicevo prima, cioè tutto l'indotto. Vede, molta parte della produzione agricola non avrebbe senso senza la zootecnia e molti altri prodotti che noi usiamo tutti i giorni, dalle gelatine fino alle valvole cardiache, dalla pelle ai cosmetici, sarebbe molto difficile farle senza la produzione zootecnica, per cui 30 miliardi non considerano l'indotto. Sono oltre 150.000 persone che lavorano nel settore e anche qui sto solo considerando quelli direttamente impiegati. Insomma, è un pezzo importante della nostra economia, è un pezzo importante della nostra tradizione. Tenga conto che 2/3 di tutte le produzioni DOP europee di prodotti a base di carne sono italiane. Consideriamo il modello italiano un modello importante da usare come esempio nelle indicazioni che vengono date a tutta Europa. Perfetto. Senti, esistono norme solide in Europa, ma Carni Sostenibili garantisce il futuro alle prossime generazioni dell'alimentazione, come spiega Maria Caramelli, direttore dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. La sicurezza alimentare per gli europei è un diritto. Per noi europei il diritto di non ammalarsi mangiando deve essere garantito a tutti, per tutti gli alimenti, indipendentemente dalle possibilità economiche. Sicurezza alimentare è garantita attraverso controlli che si basano sul principio di precauzione. Cioè, per cui tutti i controlli, se pensiamo alla filiera della carne, si susseguono lungo tutti gli anelli della filiera. Cioè, se noi proviamo a seguire il percorso di una bistecca, dall'allevamento alla tavola, i controlli devono garantire che ogni prodotto intermedio sia sano, proprio perché il rischio non si trascini all'anello successivo, non soltanto che il prodotto finito sia sicuro. Da questo punto di vista siamo assolutamente protetti e la sostenibilità fa un passo oltre. Cos'è questo concetto di sostenibilità delle carni? Sostenibilità significa non far ricadere sulle generazioni successive il costo di quello che noi facciamo per avere dei prodotti. In questo caso il prodotto alimentare, il prodotto carne, si sta ponendo il quesito di come comportare degli impatti dal punto di vista ambientale, ma anzi consentire una piena sostenibilità di questo tipo di allevamento. Noi ad esempio abbiamo costituito un modello di stalla sostenibile, cioè di fare un'azienda che faccia sì che non ci sia un consumo, un dispendio, uno spreco di energia, al tempo stesso non ci siano le condizioni per gli animali, di non dover ricorrere a un uso continuativo di farmaci, come spesso purtroppo è accaduto per gli allevamenti intensivi, ma tenerli in una condizione di benessere, tanto che non siano necessari antibiotici o altri trattamenti che possono essere pericolosi per le persone. Quindi sostenibilità significa anche il benessere dell'animale, perché questo è richiesto del consumatore ed è anche una garanzia per avere un prodotto più sano e soprattutto poi un ambiente, di conseguenza un ambiente anche più sicuro. I criteri di sostenibilità quali sono in sintesi? Un allevamento sostenibile, un allevamento in cui gli animali stanno bene, si trovano al fresco d'estate, al caldo d'inverno, per cui non abbiano le broncopolmoniti d'inverno o le gastroenteriti d'estate, quindi noi, per fare un esempio, ricorriamo meno agli antibiotici che poi sappiamo, se ne abusiamo, passano al prodotto carne e poi rimangono nell'ambiente inquinando l'ambiente. Quindi il modello italiano può essere un passo in più rispetto al modello europeo? Perché ricordiamo che in Italia la sicurezza alimentare è nell'ambito del Ministero della Salute, quindi è una priorità di salute, infatti i dati ce lo dicono con certezza, noi vediamo che i residui, cioè quanto riguarda la presenza di sostanze chimiche residuate negli alimenti, in Italia ha delle percentuali irrilevanti di molto inferiore rispetto alla media europea, e poi non parliamo rispetto alle medie extraeuropee. Non solo, ma noi facciamo un 40% di controlli in più rispetto a quanto previsto dagli obblighi europei. Quindi noi partiamo da un livello di sicurezza già molto elevato. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Euro Reportage. In collaborazione con Euronet Plus.